Dottor Laporta, ha fatto? Sì, ha fatto. È scaduto il tempo. È scaduto, importante. Tocca a lei, su. Che parole? Che parola ha composto? È finito il tempo, dottore. Sterfasce. È da 8. Sono 10. Non esiste Sterfasce. Ma perché devi portare Aspetta, ascolta. Sì. Mettiamo la tagliessina. No, due ne ha fatte lei. C'è una grassidra per uno. Sterfasce non esiste. Al suo vocabolario. Non esiste nel vocabolario. Sul vocabolario italiano. Sul vocabolario italiano. Sul suo non lo so. Sul disuso. È in disuso. Come in disuso? È in disuso. Ma quale? È in disuso. Il dizionario. È sul vocabolario. Il vocabolario come si chiama? Selfish. Non c'è sul vocabolario. Due, quattro, dama! Non esiste, dama. Non esiste. Voi lo conoscete Selfish? No, abbiamo votato. Non c'è sul dizionario. Non esiste. Mettiamoci. Abbiamo votato. Mettiamo il dizionario. No. Mettiamo. E dove lo mettiamo? Dopo la zero. Non dà fastidio, dopo la zero. Non legge nessuno. Ma che fai? Selfish. Non va bene, non gliela facciamo passare, mi spiace. Posso prendermi solo lo scarabello? No, non mi prendo la lettera. Poverello, pure Jolly, metta a posto per piacere. Spregliarspo! È finita. Spregliarspo, tocca. Abbiamo fatto il giro? Sì. No, sta zitta, sei stato zitto. No, una parola. Ridocca a me, sì. te sei stato zitto. Sei stato zitto. Sì. È finita la classifica. È screfreccio. Steffreccio. 150 punti. Sì, ma no, una parola deve essere in italiano. Dimmi solo. Italiano. E io sono? Come italiano. E chi sono? Lei è italiano. Sì, italiano. Ecco, allora, noi stiamo qua per giocare. Siamo chi qui per divertirci. Non è che stiamo qua a giocarci i soldi. Una parola in italiano, che ci vuole? Allora passo. Ecco, bravo, passa, tocca a te, vai. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Oggi giovedì 21 febbraio, non è l'almanacco ma è l'Accademia della Brusca, la trasmissione che vi parla di linguistica e non solo. E proprio su questo non solo ci ricolleghiamo all'omaggio che abbiamo fatto a Gabriele Laporta, mitico compagno di lunghissime nottate davanti alla televisione su Rai 2, che ahimè oggi ci ha lasciato per le volte celesti, e quindi abbiamo voluto, come dire, omaggiarlo con questa bellissima imitazione a Scarabeo di Corrado Guzzanti, ovviamente, il mitico, il solo e l'unico. E che dire, come avete passato la vostra settimana in assenza delle bruschette? Perché bisogna dirlo, la settimana scorsa non ce l'abbiamo fatta, stavo poco bene, la nenia era informissima. Ero in informe. Io invece ero in forme, esatto, o in forse. Anche disumanamente in forme. Disumanamente, oh. Sì, tra l'altro sì, ho rivisto di recente anche le streghe di Eastwick, ecco. Che si potrebbe ricollegare un po'. Sì, tutto ciò che è macabro. Macabro e carnascialesco, demoniaco, tutto quanto. Una bella puntata sul carnevale. Oh, wow. Ti ricordi la serie Carnival? L'avevi vista? No. Bene. Ok, abbiamo trovato altri spunti per i nostri ascoltatori e non soltanto per la Nina che ultimamente... Una puntata sulle formule magiche. Wow, sì. Bella. I put a spell on you. È chiaro. Come vedete, siamo sempre su quel fil rouge con il quale vi avevamo abbandonati, naufraghi nel mare dei demoni, perché abbiamo parlato ben 2 settimane fa del nostro amico carissimo, bellissimo Titi Villus, il demone dei refusi, e stasera vi parleremo di Titi Villus 2, il demone dei refusi, parte seconda. Ecco. Perché non so se lo sapete, ma la nostra amica Nenia ha una grande passione, una grande conoscenza dell'arte. No, non è vero. È un pochino. Infarinatura. Il suo curriculum studiorum. È impregnato di conoscenze artistiche. Si vede che sto prendendo il magnesio e le vitamine? Che brava. Che verve, ragazzi. Perché non me ne lasci qualcuna sull'avanzare della finestra? La mattina? Basta andare alla Lidl. Alla Lidl, ragazzi, consiglio a tutti quanti. Alla Lidl costano 1,20 euro il tubettino di robette effervescenti tipo il magnesio e le multivitamine. Una e una alla mattina, siete nuovi. Secondo me è placebo. Vabbè, ma appunto. Però quale cosa fa migliore? Pur sempre bene, infatti. Quale cosa migliore? Io, se vuoi, per riprendere un po' il filo della puntata precedente, ho ritrovato un file audio che serviva alla casa editrice di questo fantastico libro per presentarsi nel webs. E allora, se vuoi, te lo faccio ascoltare. Ma molto volentieri, riprendiamo il filo da lì. Un santo sacerdote, in occasione di una grande solennità, vide un demone che tentava di allungare una pergamena con i denti e gli chiese cosa stesse facendo. Il demone gli rispose: «Scrivo le parole vane che vengono pronunciate in questa assemblea e dal momento che oggi tali parole sono più numerose del solito, data la solennità del giorno di festa, ho notato che la pergamena che ho portato non è sufficiente e ho provato ad allungarla con i miei denti». Sentendo ciò, il sacerdote prese a riferire ai fedeli quanto gli era stato risposto e nell'ascoltare questo tutti i presenti iniziarono a piangere e a pentirsi, tanto che il diavolo vide che tutto quello che aveva scritto si cancellava, così che la pergamena rimase vuota. Che quark. Hai visto? Che quark. Cosa ti ho raccattato dal webs. Sì, carissimi, che quark. E quindi che facciamo? Riprendiamo il filo del discorso, come si era detto. E questo era un exemplum medievale, forse il più noto su Titi Villus, che vi ricordiamo è il demone cosiddetto dei refusi, ma in realtà se vi ascoltate il nostro podcast è un demone ad ampissimo spettro, perché era un demone dei copisti, il demone dei linguisti, il demone degli scrivani, dei chierici distratti. E oggi invece vi parleremo, è apparso un demone anche qui dalla porta della regia di Radio Wombat, del demone degli stampatori e del demone detto anche Araldo dell'Inferno. E tutto questo vi dovrebbe portare a pensare che parleremo di arte. Ah. Ecco perché ho tirato in ballo la nostra Nenia come grande conoscitrice del mondo dell'arte. Oh, cara. La chiameremo la nostra Vittoria questa sera. Potresti dirmi capra, capra, sei capra. Caprissima. Sì, proprio oggi non sono, vedi, forse ho bisogno delle tue vitamine. Te le passo. Sì. Allora, cari amici, iniziamo. Ti vedo, sai. La Nenia sto freme. Sto prendendo la mira perché non vedo l'ora di passare a questo prossimo pezzo. C'è un pezzo bellissimo. Guarda, facciamo... È l'unico pezzo trash della giornata, perché oggi per la brusca è la giornata mondiale... Del pezzo serio. Della musica, sì. E quindi abbiamo soltanto un pezzo trash. Giusto. Tutto il resto è musica di qualità. Il resto è una selezione meravigliosa. Generi differenti. A parte due pezzi dello stesso genere, però ci siamo impegnate a spaziare fra i vari generi. E sì. C'è anche una delle mie canzoni preferite. In assoluto. È la prima, quella trash, immagino. Allora c'è la seconda, okay. Mia canzone preferita, okay. Guarda che ancora non ho messo Piero Pelù. Il sotto. Attenzione. Mi ero dimenticato. No. Oggi ho fatto una promessa a me stessa. Solo un pezzo trash e tutto il resto massima serietà. Bene, perché... Quindi lo vuoi sentire subito, immagino. O vuoi iniziare a leggere prima qualcosa? Allora, no, facciamo una cosa, chiudiamo la parentesi trash. Posso dire una cosa prima? Se cercate su YouTube c'è un video bellissimo di 10 minuti di Piero Pelù che carica... Wow. Quindi cercatelo. Meraviglioso. È un po' psichedelica l'immagine quando... Sì, va al loop. Noi l'abbiamo vista ieri sera mentre cenavamo, ci siamo sentite un po' lacrimare gli occhi. Però bene. Bene, maestro, musica. siamo sicuri? Sì. Beh, l'unico, sì. Unico della giornata. Mezzo puntuali al bar, però lo sapevamo già, Shalala. Che tra una cazzata e l'altra c'è Ceci che passa in bagno l'eternità, Shalala. Tutti in macchina, la festa è lontana e poi dalle tipe ci aspettano, Shalala. Oh ragazzi tranqui, questa è una botta sicura, basta che non ci perdiamo, rotta per casa di Dio, stiamo volando alla festa, rotta per casa di Dio. Che pezzone, hai visto? Pop punk, sì, alla pancreas. Sì, sì, sì. Brutto, sì, sì, come la morte. Devo dire che sì, la prossima volta metterò i Carlos Dunga. E gli amici. Sì, gli amici, perché ci stanno troppo meglio. Faremo una puntata. Però questa mi faceva ridere. E allora, visto che tutto il resto era improntato sulla serietà, volevo... mettere qualcosa con un pezzo. Ci sta perfettamente. Così infatti è già trascorso il primo quarto d'ora della nostra nuova puntata dell'Accademia della Brusca. Abbiamo perso tanto tempo. Ma oggi, no, oggi dedicheremo molto tempo, esatto, alla musica. Però in realtà parleremo un pochino meno. E lo so che da casa state saltando sulla poltrona e battendo le mani, sì, e vediamo, brindando con i vostri vicini di casa dalla finestra. Ma non prendetevela vizio, esatto, perché esatto, succede oggi, ma succede, non succederà oggi spesso. Perché volevamo per forza finire questo argomento che, e qui, che però chiaramente siamo lì, siamo alla fine del libro, non è che avevamo tanto da raccontare. la settimana scorsa volevamo raccontare delle altre cose inerenti alla settimana nera degli sgomberi e non c'è stato verso. Parlarne ora è un po' anacronistico. Ormai, sì, infatti, ne hanno già detto tutti un po' e noi non vogliamo aggiungere nulla merda alla merda. Carta. E quindi niente, possiamo iniziare con il nostro nuovo argomento. Merda al fuoco, lo possiamo. Sì, merda al fuoco. Sì, non vogliamo mettere torba al fuoco. Dai, giriamola così, così che è meglio. Siamo delle signorine. Vai, noi. Su. Emiliana, certo. Non ridere. Emiliana è in collegamento perché si parla del diavolo. O bene, come direbbero a Firenze. Anzi, ciao, bene. Ciao Emiliana. Ciao. Una nuova ascoltatrice del Wombat. Orso. Obbligata. Verrà pagata. Verrà domani. Pagata, esatto, esatto. Dici, facci, insomma, dacci le coordinate del conto della posta e provvederemo. Bene, iniziamo. Siamo a pagina 32 del nostro Titi Villus, il demone dei refusi di Julio Ignacio González Montañez, con delle edizioni grafe.it, e vi parleremo di Titi Villus come demone degli stampatori. La comparsa della stampa sul finire del XV secolo ha spostato il problema degli errori nelle copie dei libri dagli amanuensi ai tipografi. Facile, no? Molti di questi, specialmente gli apprendisti incaricati a volte di comporre la pagina, sapevano appena leggere, perciò introducevano nei testi numerosi refusi, in gergo si direbbe interpolare, il che potrebbe spiegare il fatto che in Inghilterra finirono per essere conosciuti come i Printers Devils. È certo che dal XVI secolo... ci sono notizie di refusi di stampa attribuiti al diavolo, però in nessuna di esse si menziona concretamente il nostro caro amorosissimo Titi Villus. Qui sotto parte una nota lunga 8 righe praticamente. E noi sì, inutile, esatto. Io la salterei, guarda, perché l'ho già letta. L'ho già letta la nera, lo sa. Vadi avanti. Lo sa. Il caso più famoso è quello della versione latina dell'Anatomia della Misa di Antonio de Aeda, stampata senza indicazione di luogo nel 1562. Quindi, Missae ac Missalis Anatomia. L'editore, il vescovo Vergerius, alla 172esima pagina del testo dovette aggiungere niente meno che 15 pagine di errata corrige. Immaginate le bestemmie. E che si vide obbligato a giustificare questo gran numero di errori per un doppio intervento del demonio. Cioè, l'ho fatto anch'io con la mia tesi. L'hai fatto anche tu, eh? Sì, sì. Io il no, demonio. Perché la mia tesi trattava di questo. Quindi non potevi andare troppo avanti. Sarebbe stata una terza interpolazione di errore, tipo... Ah. E quindi questo doppio intervento del demonio, con il primo ha eliminato alcune parti rendendo illeggibili intere porzioni del manoscritto originale e con il secondo facendo confondere gli stampatori nella composizione. Scrivevano ancora in latino, di conseguenza dovevano seguire una consecutio e una struttura della frase che si, diciamo, basava sulla declinazione, quindi poteva essere un pochettino difficile. Non è come il latino dei giorni nostri, che non siamo più abituati a parlarlo, era una lingua a tutti gli effetti, però insomma anche lì secondo me hanno avuto vita non facile. E poi, anche se i refusi continuarono a comparire in gran numero nei libri stampati, è famosa per i suoi abbondanti errori l'edizione della Vulgata di Sisto V, che provocò gli scherni dei luterani sull'infallibilità del Papa. Anche qua c'è una bibliografia sterminata su questo episodio, perché... Cioè, tra l'altro c'è un'invettiva vera e propria di Martin Lutero. Il Papa non può fantastico. Sbagliare, se sbaglia è colpa del demonio. Esatto, c'è sempre un terzo, un povero capro espiatorio, un terzo da tirare in ballo. Anche i notai stanno cercando di Titi Villus, demone dei notai. Sì, sì. Ma questa casta dei notai. Insomma, non ci sono molti casi in cui si attribuiscano gli errori al demonio, almeno fino a epoche recenti. Vedi la mia tesi. Esatto, si parla di una decina di anni fa, forse meno. Forse più. Forse più, dai, dai, su. Almeno fino a epoche recenti, ricevamo in molte occasioni a mo' di scherzo per eruditi, come accade in numerose edizioni dell'Oxford English Dictionary, che includono volontariamente alcuni riferimenti errati con una menzione a Titivillus a piedi pagina. Oddio, che meraviglia! Che immaginate. Guarda. E quindi raffinatissimi. Ma sono inglesi, ragazzi. E quindi bisognerà andare a pescare anche questo. Sì. Io per vorrei forza. Una stampa di questa cosa a grandezza del muro di cucina proprio. Sì, sì. E per quel che riguarda il panorama artistico, invece, quindi iniziamo a introdurre il tema della serata, sono a conoscenza di un solo caso, dice il nostro caro Julio Ignacio. Dubbioso perché sembra essere semplicemente un emblema di un diavolo nella stampa antica. I restanti sono dei secoli XIX e XX, quindi come si diceva durante la puntata scorsa, con tutta probabilità ispirati ai dizionari inglesi dell'epoca. Il più famoso è probabilmente il Printer's Devil in Stonegate a New York, servito da modello per l'ufficio stampa del governo di Australia a Brisbane e per lo stendardo della stampa di Glasgow. Ragazzi, di Tivillus è come il Wombat. Sì, sì, sì. All sì. around the world proprio. Ma sì, infatti. Capito? Perché, diciamolo perché è una new entry di questo pomeriggio. Sì. Andate nel sito, dove già siete molto probabilmente, a meno che non ci stiate ascoltando dalla M1359. Santi. Caro sito, andate nel menu tra podcast, stream, andate in fondo, oppure seconda riga se state guardando dal cellulare, e troverete nel menu scritto Wombat nel mondo. Però fatelo quando è finita la puntata. Bene, o potete guardare e ascoltare contemporaneamente, perché ora lo streaming apre una scheda nuova. Una nuova scheda. Sì. E ciao, quindi Elena. Abbiamo tutti gli aggiornamenti del nostro Wombat che gira il mondo, come lo gnomo di Amelie. O come Titivillus sullo standardo di Brisbane. Esatto, manda le sue fotografie. Che carino. Quindi date un'occhiata e se avete delle foto di Wombat dal mondo, questa rubrica che prima faceva parte dell'Accademia della Brusca, adesso si è resa indipendente. Cammina con le sue sole gambe belline. E piccine, fa tutte le cacchettine cubiche. E va che è una meraviglia. E ora tutti gli aggiornamenti del Wombat nel mondo li troverete in questa parte del menu. Ricordiamo esatto. A questo punto anche i social, il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail, importantissima, se ci volete anche mandare delle foto per aggiornarci su dove è finito il Wombat con la sua valigia di cartone, è postawombat@insiberia.net. Ottimo. Io ora... Hai bisogno di una pausa? Opterei per una pausetta. Vuoi il tuo preferito? Sì. O... Sì? Sì. Bene. Grazie. Allora ti accontento subito. Grazie. I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, no need 20 bills. Spent the night in the Utah Inn, gave up in the hills. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. He took my $20 bill and it vanished in the air. I'm running, but take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry awake, lonely night. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, the one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. Said I'll run up and take my time, my friend. The devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ecco i Grateful Dead, Friend of the Devil. Mi rimetto le cuffie e vi ricordo che c'è anche una bellissima versione cantata dall'adorato Al Jourgensen dei Ministry dal vivo durante un concertino bello bello, e la trovate tranquillamente sul tubo. Ecco. Allora, bentornata la nostra amica Nenia che eccomi. Ci aveva lasciata per un lasciati per un secondo, eccomi. Mi aveva piantata in asso. Brava. E possiamo, dopo aver ascoltato questo bellissimo pezzo, parlare dell'Araldo dell'Inferno. L'Araldo dell'Inferno si ritorna in Inghilterra e nel Medioevo, in particolar modo nel teatro medievale inglese, dove Titi Villus e i suoi seguaci appaiono spesso mentre suonano un corno con il quale convocano le anime per il giudizio universale, soppiantando gli angeli che, secondo il Vangelo di Matteo, suoneranno le trombe per annunciare la fine dei tempi. In alcuni casi i demoni sono appunto in competizione con gli angeli, ma come vi dicevamo l'altra volta, al momento i demoni sono invece quasi al servizio di Dio. L'esempio più lampante è lo Yudi... che rotta per casa di Dio. Esatto. Scusa, io la vorrei non come... penserai che io l'abbia messa a caso. A caso, io la vorrei come sottofondo, ma mi hai detto io. No, oggi sobrietà. Iudicum dei Townley Plays, numero 30. Qui ci sono 5 riferimenti ai corni suonati dai demoni, che, come abbiamo visto, c'è anche lo stesso Titi Villus che entra in scena dicendo "My hornets blowing". E ci sarebbe anche un altro studioso, di cui effettivamente devo dirlo non so nulla, che è tale M.D. Anderson, che menziona un'iscrizione nella chiesa di Campsell nello Yorkshire che cita "Beware of the devil when he blows his horn and pray thy god angel to convince thee". Ok, sentite che inglese, ragazzi. E mi sento che mi io non ti sto nemmeno più ascoltando. Non so perché, ma ho una sensazione stranissima che stia per succedere qualcosa. Non ti sto ascoltando perché il mio interesse è andato altrove. Siamo tutti i brividi. Lo sapevo. Non si era detto niente trash. No. No, vabbè, ragazzi. È finita. Era così per farti un dispetto. È la vita dura, una gran fregatura. Quindi era insomma. Un dispetto, ma vabbè, è finita qui. C'è il forcone. Cosa credi che possa andare avanti tutta la sera a farti sentire questo fantastico sottofondo? Se l'ha detto niente trash. tra l'altro io mi sono messa, stasera indosso un montoncino bianco quinto. E l'ho tipo arrotolato sulle spalle perché mi fa freddo ma mi fa caldo, no? Quindi certo, mancano i cornini. Perché le idee molto chiare. Esatto. Quindi sono perfettamente in tema, sia sì. Devil sì. che Piero. Saluto a Piero. E quindi, insomma, Titi Villus nei demoni raffigurati nel teatro, nell'araldica inglese, soprattutto nel teatro, ci appare nell'atto di suonare corni, trombe, nelle varie rappresentazioni tardo e medievali del giudizio universale, anche in altri luoghi, sempre ovviamente in Inghilterra. A questo proposito, ci dice il caro nostro Julio Ignacio, bisogna ricordare che il corno e gli strumenti a percussione nel Medioevo erano generalmente considerati strumenti infernali perché produttori di rumore in contrapposizione all'organo, ai flauti e agli strumenti a corda che hanno connotazioni celestiali visto che producono vera musica. E d'altro canto, l'associazione del corno con Titi Villus in Inghilterra può avere a che fare con il suo nome. Finalmente ce lo spiegano. Ovvero, secondo alcuni autori, sarebbe una latinizzazione burlesca del verbo sassone tutil, che vuol dire suonare il corno. Parimenti, e per quel che riguarda l'arte, c'è da considerare che il corno calamaio di alcuni demoni scrittori, come il Capitello Romanzo di Notre Dame potrebbe essere all'origine delle rappresentazioni posteriori di Titi Villus che suona un corno nel giudizio universale. Com'è bellino il nostro Titi Villus. È molto bello, sì. Lasciamo stare la parentesi sul teatro, quella ve la, insomma, la saltiamo. Potremmo parlare, quella mezz'oretta scarsa che ci rimane per stare insieme, almeno facendo diciamo un cappello introduttivo, di Titi Villus nell'arte. Ma vogliamo ascoltare qualcosa? Sì. Allora, prima ti ho accontentata, ora accontento me stessa. Che ne dici? Sì, giusto. Sicura? Mm-hmm. Vado? Mm-hmm. Mm-hmm. Sei volte sei, metti il 3 accanto al 6. Mi vado un capello e sopra c'è un diavolo. Salto sopra un finto coltello e divento un diavolo. Il bello è che per molte culture il mio corpo è un diavolo. Mi camuffo in anime pure, ma sono un diavolo. Mi cado un capello e sopra c'è il diavolo. Salto sopra un finto coltello e divento il diavolo. Il bello è che per molte culture l'ombra è il diavolo. Mi camuffo in altre creature, ma sono un diavolo. Ti sei mai infilato nella targa di una vettura? Ti hanno rifilato sulle vette, ma non c'è avventura. Salve capro, non è che tu sei capro espiatorio del capo, come chi spaccia sotto dittatura. Il bene nel male, il male nel bene. Gli illuministi illuminati o gli impiegati a rene. Proviamo tutti insieme dai, pulirci interamente. Ma dimmi come cazzo fai a pulirti internamente. Sei, mi cado un capello e sopra c'è un diavolo. Tanto sopra un finto coltello e divento un diavolo. Il bene è che per molte culture il mio capro è un diavolo. Mi camuffo in anime pure, ma sono un diavolo. Mi cado un capello e sopra c'è il diavolo. Canto sopra un finto coltello e divento il diavolo. Il bello è che per molte culture l'ombra è il diavolo. Mi camuffo in altre creature ma sono il diavolo. Parla 100.000 lingue, lecca 100.000 lingue. Porta le lusinghe distinta chi si distingue. Guarda con Berlusconi, Cesaroni sul 5. Santifica le iniezioni nel business e le siringhe. Gioca coi membri interni, governi, poi li restaura. Scrive sopra gli affreschi, li filma e li restaura. È chiuso in una stanza da nausea fumando fauna clausola che quando la firmano compra un'aura. Senza motivo è imbruttito al capo del blocco. Ma forse questa somiglianza è un tranello. E forse è ancora giusto fare il bravo pischello. Mi accorgo, mi cado un capello e sopra c'è un diavolo. Canto sopra un finto coltello e divento un diavolo. Il bello è che per molte culture il mio corpo è un diavolo. Mi camuffo in anime pure ma sono un diavolo. Mi cado un capello e sopra c'è il diavolo. Canto sopra un finto coltello e divento il diavolo. Il bello è che per molte culture l'ombra è il diavolo. Mi camuffo in altre creature ma sono il diavolo. Le righe cartacee voglio lealtà, sapendo per cosa lotto li sfotto. Questo bimbo non è mai stato vivace, se sa che qua è complotto contro un complotto. Tu sei proprio come me, sei finito sotto, perché senza motivo è imbruttito al capo del blocco. Ma forse questa somiglianza è un tranello, e forse è ancora giusto fare il bravo pischello. Che mi cado un capello e sopra c'è un diavolo. Canto sopra un fitto coltello e divento un diavolo. Il bello è che per molte culture il mio copre è un diavolo. Mi camuffo in anime pure ma sono un diavolo. Mi cado un capello e sopra c'è il diavolo. Canto sopra un fitto coltello e divento il diavolo. Il bello è che per molte culture l'ombra è il diavolo. Mi camuffo in altre creature. I tanti evangeli apocrifi, manga e video pedofili. Non rubo le mele ma potrei farmi le... Mi camuffo in altre creature ma sono il diavolo. Sei come sei, sei come sei, sei, sei come sei, sei come sei, sei, sei come sei, sei come sei, sei, sei volte sei, metti il tre accanto al sei. Rancore di J. Mike, il diavolo, i favorites della Nenia. Ecco, ecco. Che rancore è da queste parti questi giorni, ma non farò pubblicità a nessun locale, quindi non vi dirò niente altro. Andatevelo a cercare. Però lui merita. E quindi orbene, orbene, su, ordunque. Orbene. Titi orbita nell'arte, si diceva. Orbitiamo, orbitiamo nell'orbita subito dell'arte con il nostro con gli orpelli artistici. Come in forma anche la Nenia oggi? Si stava parlando di cuore di palma. Cuore di palma e cuori di ghiaccio. Un po'. Come i vostri. Odio di palma e cuori di palma. Odio di palma. Sì. Allora, Titi Villus non conosceva ovviamente l'uso dell'olio di palma, ma no, era sicuramente grande protagonista dell'arte, tra romanico, gotico e cos'altro, basta. Perché no, anche poi un po' barocco, un po' anche un po' bizantino, sì, a seconda. Sparso qua e là per l'Europa, sì, c'è un po' di tutto. In Italia poco, meno, insomma. Sì, sì. Non c'è un granché. Noi diavoli non piacciono. Purtroppo. A me sì. Quindi, partendo dai differenti ruoli che gli autori medievali hanno assegnato nel corso, insomma, degli anni a Titi Villus, gli artisti hanno elaborato varie rappresentazioni, mannaggia, del nostro demone. Nei casi più antichi, ma anche in altri posteriori in realtà, viene raffigurato mentre scrive su una pergamena. Fino a qui tutto bene. Ok? Così che se non lo identifica un'iscrizione, potrebbe sorgere il dubbio che effettivamente si tratti di Titi Villus o semplicemente uno dei demoni grammatici letterati. Certo, semplicemente, come dire, vabbè, sarà un demone qualsiasi, uno cosa caso, vuoi che sia. Pazzuzzo, insomma. E il dubbio, in ogni caso, scompare quando il cartiglio allude ai peccati. C'è un bellissimo capitello, andatevelo a cercare nelle immagini del Google, che è il capitello di Lach, scritto L-A-A-C-H. O quando il demone scrittore compare nei cori e sotto i pulpiti, attento a raccogliere gli errori e le omissioni dei cantori e dei predicatori. Capito. Capito, ragazzi, state molto attenti ad andare in chiesa. L'identificazione è chiara anche quando viene rappresentato mentre stira la pergamena con i denti. Questa è la preferita, sì, della Nenia. Sì, sì, sì, sì, c'è proprio questa immagine di questo diavolo che tiene la pergamena e la stira perché gli serve più spazio, serve una pergamena più lunga perché ci sono tanti peccati da annotare. Infatti era l'exemplum medievale con cui poi abbiamo aperto la puntata. E questi sono caratteri che rimandano inequivocabilmente all'exemplum di Jacques de Vitry, quindi quello di cui vi parlavamo prima. E in molti casi però Titi Villus non solo scrive, anzi non scrive proprio, ma si limita a mostrare le pergamene o un libro in cui sono annotati i peccati, come succede negli scanni del coro di Altenberg. Come siamo veramente artistiche stasera? Hai visto? E questa variante è molto frequente nelle rappresentazioni del giudizio dell'anima in cui un demone compare mostrando tutti i peccati del defunto. Yeah. Secondo la leggenda aurea e il testo di Pier Marini, Titi Villus si presenta anche a Sant'Agostino, pensate un po', portando, cioè, il capo dei filosofi, dei retori, portando un grande libro con i peccati umani, e in tal guisa viene raffigurato in un olio anche di... questo penso sia Michael Pacher, conservato nella Pinacoteca, anzi Michael Pacher, conservato nella Pinacoteca di Monaco. Quindi ora siamo all'incirca verso il 1450, facendo un po' una media. Poi con sulle spalle un pacchetto di libri lo troviamo anche in Spagna, a Burgos. E il carico di peccati, poi in alcuni giudizi universali bizantini, è composto non da libri ma da rotoli di pergamena. Sempre siamo tra la Spagna, sempre zona romanza, tra la Spagna e, pensate un po', la Romania. Voronezh è in Romania. E tornando un po' al nostro amico Jacques de Vitry, quindi l'amico dell'exemplum di cui abbiamo parlato all'inizio dell'audio, insomma, relativo all'audio che abbiamo fatto ascoltare, c'è un grande dettaglio che ha molto molto molta importanza. Il sacco che Titi Villus riempie mille volte al giorno con le pergamene, in cui annota le omissioni dei chierici e le parole oziose delle persone. Che carino, bellino. Non so, ma i cazzi suoi. Poi questo sacco a volte si trasforma. Dall'immagine del sacco sulla spalla è nata poi l'immagine del cestino, l'immagine della cesta più grande, del contenitore, però l'immagine principale è stata quella del sacco, sì, ecco. Sulle spalle. Un po' come la Befana. Esatto, sì. Che è un'origine pagana abbastanza importante, insomma, come dire. E prima di lasciarvi un altro pezzetto, che vi faremo ascoltare a breve, facciamo proprio il punto della situazione. La rappresentazione più frequente di Titi Villus è comunque quella che lo mostra solo o in compagnia di altri amici diavoli, mentre induce i fedeli, soprattutto le donne, al pettegolezzo e alla maledicenza, si diceva anche nella puntata scorsa, per annotarne di conseguenza tutte le mancanze. È il tema che gli autori di lingua inglese, sentite un po', definiscono warning against idle gossip. Motivo tipico delle misericordie degli stalli del coro di un sacco di cattedrali che sono inglesi. Tutti questi seggiolini di legno che stanno tutto attorno al coro della chiesa, dove si sedevano tutte le persone importanti, tutti i prelati, insomma tutte le persone del clero, e tutto attorno c'erano tutti questi bassorilievi scolpiti nel legno, e c'erano tanti Titi Villus, pensa un po'. Bellino. Comunque si trova anche nel ciclo di Dürer. Sì, esatto. Che, insomma, Dürer, in quanto a diavoli, ne sa qualcosa. Per cui che qualcosa gli è capitato. Qualcosina, porino. E quindi ecco qua il nostro Titi Villus come Araldo Infernale e nella rappresentazione, diciamo, una carrellata un po' nell'arte. Poi ci sarebbe da fare tutto il punto sul gotico, il romanico, il rinascimento. Vi facciamo ascoltare un pezzo e poi vi diciamo proprio due cosette al volo. Bene. E questo cos'è? È Lili. Ah, la nostra amica Lili. Sì, proprio lei. Thank you. Lily Refrain 6666. E tutte le sue macchinette. Tutte le sue macchinette diaboliche. Bellina. Un saluto, tanto io la vedo presto, ecco. E ve la saluto a tutti. Sarà bene. E che dire, si finisce un po' la nostra serata e purtroppo il capitolo dedicato a TTV Illusione parlerei tipo fino a giugno. Fino alla questo fine è un libro della studiare a memoria e recitare durante le cene galanti. Oh, lo sapete, cari? Abbiamo trovato un libro fantastico su TTV Illusione. Dovete recitarlo con questo accento. Come dire, ma posso farti ascoltare una cosa che ho trovato ricercando sì. robe diaboliche? Oddio, non c'entra niente, ovviamente. Però è stato un cavallo di battaglia degli anni 90 e allora sì. Per dedicarlo alla nostra amica Wendy, Wendy presenteremo che... questo fantastico estratto. Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo accanto alla frutta. Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo accanto alla frutta. Posso sapere chi è? Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo accanto alla frutta. Bella stazione! Sono quei ritrovamenti. Quando Benigni era una persona seria. Era una persona meglio. Ecco. Lo sapevo che prima o poi sarebbero arrivati anche alla Brusca. I fratelli Peluria. Wow, bisognerebbe fare una puntata tutta sui fratelli Peluria. Io ho... E poi la divido... A metà. Noi abbiamo due amici, un'amica e un amico, che effettivamente... bazzicano, sono nati da quelle parti, per cui attenzione cari fedelissimi ascoltatori dell'Accademia della Brusca, perché è molto probabile che vi appiopperemo una bella puntata sull'abruzzese. Ah, fantastico, ecco. Che dialetto e diciamo minoranza linguistica italiana da non sottovalutare. Insomma. Allora, prima di finire il nostro discorso... Ti do pochissimo tempo, cara, perché devo parlare almeno quest'altro... Uno di questi due pezzi li devo mettere. Io avrei una richiesta. No? Sì. Skip James. Va bene, dai. Va bene, via. Vorrei Romanico, dire per quanto che... il tema di TV, se dovete parlare fino al... Allora, Romanico, cosa troviamo? Già nel Romanico... testimonianze precedenti di demoni che annotano i peccati e a partire dalla fine del XII secolo ci sono le vere prove testuali della credenza in un diavolo, all'epoca ancora senza nome, quindi siamo nel 1100, che prende nota delle mancanze nella recita delle ore, come dicevamo nella puntata scorsa. A pagina 42 invece si parla poi del gotico. Nel primo gotico continuano a comparire nella scultura i demoni scrittori, i demoni con libri o cartelle che li identificano come raccoglitori dei peccatapopuli. Quindi ci si sposta dalle ore a culo, le 40 ore, ai peccatapopoli. E l'inizio invece dagli inizi del XIV secolo che la storia di Titivillus, che nel frattempo ha consolidato il suo nome, diventa popolare nei sermoni, nei trattati morali e comincia a comparire anche con una certa assiduità in campo artistico. Rinascimento. Ormai sappiamo, Titivillus è un personaggio essenziale e essenzialmente appartenente al Medioevo, però se esaminiamo il numero di esempi conservati, l'arte ha raggiunto la sua massima popolarità sul finire del XV secolo e nelle prime due decadi del XVI. E continua poi a fare la sua apparizione anche come illustrazione diretta di un sacco di exemplum, sempre in questo periodo. fino a quella che è l'epoca barocca, quindi il XVII secolo, dove Titi Vilus invade la Polonia. Continua a essere aveva popolare. Un che, vedi, di qualcosa, di, come di dire, qualcuno che mi che ricorda della storiaccia. Era Smola, Sorvaka, Porevsi e Dirmarski. E non ho detto cazzate, detto è veramente città polacche. È tutto vero, io confermo. E continua insomma a essere popolare nell'Europa del Nord. Nel resto dell'Europa invece il tema scompare. Sebbene nel secolo XVIII non siano ancora relativamente frequenti le rappresentazioni che derivano dall'Ars Moriendi medievale di moribondi in cui appaiono demoni che portano un libro con la lista dei peccati. Ti immagini? Bellini. E che dire, ci sarebbe anche l'arte bizantina, greca dei Balcani addirittura, e anche della Georgia, quindi stiamo veramente andando tra agli Urali e oltre. Nel mondo, vedi, esatto. Spaziava, parte non torna più. Che si diceva prima, nella regione della Bucovina della Valacchia, quindi in Romania, dove la pittura tra il XVI e il XVIII secolo riporta numerosi casi di giudizi universali dove i demoni si impegnano nell'ottenere la condanna di un essere umano facendo pendere la bilancia sostenuta dalla mano divina verso il piatto delle opere cattive commesse. Sentite? È un libro molto sottile, per cui non si sentirà il volume che si chiude. Però oggi si conclude il nostro viaggio che abbiamo insomma intrapreso per conoscere Titi Vilus, il demone dei refusi, che vi ricordiamo è un libro edito dalla Grafe.it di Julio Ignacio González Montañés. Ecco, in Italia invece poca roba, pochissima. L'unico che ci tengo a sottolineare è quello della chiesa di San Pietro di Spoleto, perché è un'immagine anche molto chiara che ho trovato e che volevo mettere nel podcast. Insomma, meritava, ecco, questa citazione al Titi Vilus. L'altro Spoleto è un posto a sballo, bellissimo. Niente male. Però sì, in Italia è stato un po' meno citato. E figuriamoci perché. No? È stato sempre molto poco c'è Orvieto contestata perché negli affreschi della cupola Orvieto con testata è contestata la presenza di Titi Vilus perché in realtà non gliene fregava niente di me, non c'entrava niente, però qualcuno dice ah sì sì c'è anche Orvieto, ma non dimentichiamoci di no. Che c'erano le mode comunque anche all'epoca tra gli scultori. È stato più moda cercare di identificare Titi Vilus e tutto quello che aveva a che fare con eccola infatti sì, ho avuto avete un sentito calo di microfono vabbè, ripeto tutto, a Spoleto c'è, a Orvieto forse non è vero, mettiamola così. Poi c'è a Bolzano, poi c'è a Trento, o comunque in Trentino Alto Adige, due o tre esemplari. Ragazzi, Anni Krampus, l'incubo della mia infanzia, per cui insomma figuriamoci se non c'è Titi Vilus. Ecco, e che altro? Basta, dai, sono le 20:58, dobbiamo far sentire l'ultimo pezzo che hai scelto tu. Esatto, grazie. Despota, ci lasciamo. Nina Despota. Ci lasciamo con baci, saluti e abbracci. Gli appuntamenti ve li ricorderà Nauto Date, esatto. Che entra on air a seguire con 8 Hertz. Sta per finire la mostra del NEMA a cura di Ribellarti. Correte. Finisce il 23 febbraio, quindi correte. Avete ancora due giorni. Pochissimo. Guardate le informazioni nel blog del NEMA, nema-blogs.qualcosa, org, quello è, suppongo. E basta. Questo NEMA che ci scorre come sabbia tra le dita. Oh, guarda. Questo viaggio con Titi Vilus è concluso. È stato bello. È stato molto bello. E a risentirci. A risentirci. E giovedì prossimo, Skip James, God Devil, My Woman. Bye bye. Woman, man. on me. Yeah.